Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Invece, a 37 anni suonati, in un'estate afosa e strana, senza pensarci troppo sopra, sono andata al canile, l'ho visto e l'ho preso. Mio padre sostiene che oggi chi prende un cane è una zitella o un anziano, oppure è in cerca di un fidanzato da incontrare grazie al passeggio del cane. Ciao, sono Elena, ho 38 anni, vivo in provincia di Pistoia e lavoro in edicola. I too would like to step in here in his defense, not as an ecologist, but as a filmmaker. He captured such glorious improvised moments, the likes of which the studio directors with their union crews can never dream of. Lui ha catturato dei momenti di tale bellezza che le persone che lavorano negli studios, che fanno i registi, si sognano di poter catturare nella loro vita. Questo pezzo è un pezzo di un film magnifico che si chiama Grizzly Man, che ha la regia di Herzog, ma in realtà la maggior parte delle immagini sono state colte da questo tizio americano che passava le sue estati a vivere con gli orsi bruni, con dei grizzly, appunto. 349-238-6666 oppure voi siete qui, radio24.it. Oggi si parla di questo, si parla degli incontri con degli animali selvatici, o selvaggi, non so quale sia esattamente la differenza, forse selvatici che non vivono con l'uomo e selvaggi che fanno paura, sono pericolosi per l'uomo, però quei momenti lì, quando ti capita, prima o poi, magari sei in vacanza, magari stai facendo una passeggiata, stai cercando dei funghi, qualcuno mi ha scritto sul profilo Facebook, e trovi un serpente o una bestia strana, un orso, immagino sia molto complicato, sarebbe magnifico ci fosse qualcuno che ha visto un orso e ci racconta com'è stata. Tiziano ha visto un orso. Ah, tuo papà in Canada. Beh, allora è vero, qualcuno nel Nord America potrebbe aver visto, oppure dei pescicani, oppure ancora, che so, i cinghiali sono un po' selvatici. Vale come animale selvatico, sì, però cinghiale è un po' un maialino di campagna. Insomma, qualunque sia stato il vostro incontro con un animale selvatico o selvaggio, 349-238-6666, vi consiglio fortemente di vedere quel film lì, quel film di Herzog che racconta di questo individuo che da come viene descritto sembrava un po' spostato rispetto alla visione del mondo. Poi chi lo sa se era spostato lui o lo è chi lo racconta o lo siamo noi, questo non lo so. Non fa una bellissima fine purtroppo, però nonostante tutto sembrava aver ragione lui, che era riuscito ad avere un rapporto suo con gli orsi. Ma d'altra parte non è il primo, ci sono un sacco di uomini, ogni tanto no, Corriere.it, sbatte ste gallery dell'amico dei leoni, l'amico degli orsi. Il vostro incontro con un animale selvatico, 349-238-6666. Più tardi vi leggerò un libro magnifico di cui ringrazio il mio amico Rosario per avermene parlato, si chiama La via del lupo e racconta come ci sia un percorso che è stato tracciato proprio dal ripopolamento del lupo, che parte dai Monti Sibillini, attraversa l'Appennino, sale lungo le Alpi Liguri, Marittime e arriva fino al Trentino, che è un percorso che è proprio quello che il lupo ha fatto per tornare a vivere e traccia praticamente un cammino in mezzo all'Italia. Ve ne parlo più tardi. 349-238-6666. La storia di Elena parla in realtà di un animale che non ha nulla di selvaggio o di selvatico, è per antonomasia l'animale domestico ed è un cane. Ho sempre considerato i padroni dei cani come degli esseri di un altro pianeta. Li vedevo la mattina presto, in inverno, camminare assonnati mentre il proprio quadrupede ad un centimetro da loro faceva i propri bisogni. E pensavo con commiserazione, ma chi glielo fa fare? Io, convinta sostenitrice della superiorità felina, della loro autonomia ed egoisticamente anche della loro più facile gestione da parte di un uomo. Io nella mia vita ho sempre avuto gatti, non ho mai avuto cani e i gatti mi sono sempre piaciuti perché sono degli animali autonomi. E poi i cani puzzano, sbavano, le loro deiezioni solide mica le fanno nella lettiera, ma che? Bisogna raccoglierle col sacchetto, roba da pazzi. Invece a 37 anni suonati, in un'estate afosa e strana, senza pensarci troppo sopra, sono andata al canile, l'ho visto e l'ho preso. Brio, un cucciolo gigante di 4 mesi con le orecchie che si spostano a caso e il muso bianco e nero. Mio padre sostiene che oggi chi prende un cane è una zitella, un anziano, oppure è in cerca di fidanzato da incontrare grazie al passeggio del cane. A quest'ora in realtà io sarei dovuta essere a Marsiglia con Claudio, sorseggiando un pastis in uno dei bar citati da Izzo nella sua trilogia. Gliel'avevo proposto io. Quest'estate andiamo una settimana a Marsiglia. Mi ero segnata tutti i posti salienti, le frasi dei libri. Solo che ad una settimana dalla partenza non me la sono più sentita. Basta, mi è scattato un click. Quello che decreta l'esaurimento della pazienza. E ho deciso che dopo 3 anni e mezzo di una storia scialba e mortificante per la mia autostima, io di lui stavolta ne avevo davvero abbastanza. Sì, ecco, io penso di appartenere a quella singolare quarta categoria di persone che sostituiscono consapevolmente un fidanzato mediocre con un cane. Quindi ora sono in ferie, però non vado da nessuna parte. In realtà macino chilometri di camminate con lui, in attesa trepidante che lasci una cacca o una copiosa pipì, aspettando di estrarre il mio sacchettino per raccoglierla, sentendomi ogni volta una persona civile. Andando a piedi in giro noto cose che non avevo mai notato prima. Posti, alberi, persone. Come ad esempio quel signore anziano che tutti i pomeriggi alla stessa ora si siede sulla stessa panchina e fissa il vuoto mentre Brio gli scorazza attorno ai piedi. E la sua positività nei confronti di tutto ciò che lo circonda, il suo ottimismo incondizionato che fa sentire anche me una persona migliore. Cammino, scambio 2 chiacchiere con le persone mentre i quadrupedi si annusano e mi stupisco di come bastino 2 cani per superare la barriera della diffidenza. Brio è un catalizzatore di ottimismo. Così non mi pesa catapultarmi fuori di casa alle 6 di mattina prima che la sua vescica, non ancora sotto pieno controllo, si lasci andare. Ora la mia giornata è scandita anche dalle sue esigenze. Sembrava impossibile. Non so, forse sono impazzita. Ma anch'io sono atterrata su questo strambo pianeta lontanissimo a cui appartengono i padroni dei cani. È un mondo davvero variegato. Ci sono i fissati, quelli con la Jeep comprata apposta per portare in giro il cane, rigorosamente nella gabbia del bagagliaio. E poi ci sono le umanizzatrici, quelle che chiamano il mio bambino o dicono sono la sua mamma. Ci sono i socializzatori, che lasciano scorazzare vari Ivan il Terribile XIII senza guinzaglio, come scusa per intrattenere infinite chiacchierate alla solita ora, nel solito posto, con la solita setta del cane. Alcuni sono davvero assurdi, ma esistono anche persone normali, fortunatamente. Il cane mi ha distrutto la vita, me l'ha cambiata perché me l'ha distrutta, nel senso che mi ha mangiato casa. Ogni tanto penso a Claudio, che a Marsiglia ci è andato lo stesso, da solo. Penso ai posti che sta vedendo, che dovevano essere anche i miei posti. Poi però realizzo che Marsiglia non si sposta, è sempre lì. E io ci andrò un'altra volta, da sola o con una migliore compagnia. Mentre sono al PC, spesso lo guardo, questo cucciolo gigante con le orecchie che si spostano a caso, mentre dorme sulla schiena a zampe all'aria, e ogni tanto sospira, cambiando 1000 posizioni, sempre più assurde. Chissà se si ricorda la gabbia del canile. Non lo so con certezza, è qui con me da 5 giorni. E da come dorme, mi sembra che noti la differenza. Sembra contento. E penso a queste ferie che ho scelto per la prima volta di passare a casa. Sono le più assurde della mia vita, ma anche le più soddisfacenti, da un pezzo. There may not be much difference between Chairman Mao and Richard Nixon. If we strip them naked, there may not be much difference between Marilyn Monroe and Lenny Bruce. If we check their coffins. Dopo anni in cui qualcosa mi ha sempre bloccato, lo scorso autunno ho preso un cane. E ho fatto esattamente come ha fatto Elena. Un sabato pomeriggio io e la mia ragazza siamo andati al canile e quando siamo tornati in macchina avevamo un cane. Molto semplicemente. è un meticcio che non si capisce bene che cosa t'abbia mischiato, anche se un signore esperto al parco, uno di quelli esperti al parco, mi ha detto che visto il colore del pelo e le orecchie dovrebbe esserci nel suo DNA un po' del cirneco dell'Etna, che è un cane piccolo e veloce, un cane da caccia alla lepre, che è stato portato in Italia, per l'esattezza, mi diceva il signore, è stato portato in Sicilia dai Fenici. Del cirneco però in realtà c'è ben poco, visto che ha un fiuto pessimo. Però, al di là del rapporto col mio cane, che non è così interessante, la cosa che sto provando sulla mia pelle è effettivamente quanto un animale possa insinuarsi nelle maglie più strette e sconosciute della tua vita. Da un punto di vista pratico è facile da dirsi. Cioè, se stai in città e vivi in appartamento, ti tocca portarlo fuori almeno 3 volte al giorno. E soprattutto, quando devi andare in un posto e non puoi portarcelo, devi trovare qualcuno che se lo tenga. Ma umanamente però ti sorprende. Ti sorprende perché lui dipende completamente da te e aspetta che tu lo faccia sopravvivere. È un po' come un eterno bambino che non svezzi mai. Cioè non arriva mai il giorno in cui gli dici e adesso esci, vai per la tua strada. Non lo fai, altrimenti arriva la protezione animali e ti carica di botte. No, tu non lo fai andare via non solo per questo, non lo fai andare via perché non lo vuoi far andare via. Perché il suo essere dipendente da te ti crea dipendenza in qualche modo. E non è solo il fatto di vederlo felice ogni volta che rientri in casa, anche se sei uscito solo 5 minuti. No, no, è proprio che prendersi cura di lui, prendendosi cura di lui, ti prendi anche un po' cura di te. Cioè il fatto che lui abbia bisogno di disciplina ti costringe ad avercela anche per te. Sapere che anche se stai facendo la cosa più importante del mondo, o che ti sembra la cosa più importante del mondo, comunque a casa c'è quell'essere lì, quell'animale che aspetta te per mangiare, pisciare. Ecco, questa roba qua è un bel modo per tenere sempre un piede ben poggiato per terra. E da quando Ugo è in casa nostra, si chiama Ugo, ho letto qua e là un po' di cose e le parole più interessanti le ha scritte Desmond Morris, che è un etologo, che è uno studioso del comportamento umano, è, per intenderci, quello che ha scritto La scimmia nuda. Lui dice che i cani, qualsiasi razza, qualsiasi taglia, tutti i cani discendono dal lupo. E anche se fa impressione a chi possiede un cane sapere che sul divano del suo salotto sta dormendo un pronipote del lupo, la cosa in fondo è proprio così. E dopo aver letto quel libro lì, che si intitola Il cane, ho pensato che in fondo una delle ragioni per cui avevo sempre desiderato avere un cane era proprio per quel motivo lì. Perché un cane, soprattutto per uno che sta in città, è un pezzo di natura che ti tiene in casa. E anche se è ammaestrato, se è ben educato ed è a tutti gli effetti un animale domestico, il cane è un animale che prima era selvaggio, che poi ha iniziato a mangiare i resti del cibo dell'uomo negli accampamenti, fuori dalle capanne. E ora invece mangia croccantini da una vaschetta nella nostra cucina. E non posso negare che anche se quando piove a mezzanotte lo devo portare fuori a fare pipì, non tornerà indietro. Canguri giganti, rossi, quando hanno iniziato a saltare ho cominciato a ridere, sono troppo buffi. Rachele, 349-238-6666, si parla di incontri ravvicinati con una bestia selvatica, con un animale, insomma, non domestico, una balena attraversando l'Atlantico a vela. Ho visto uno squalo balena, Martina, e poi a ottobre in Sudafrica con i bambini abbiamo visto tutto, ma l'incontro che ci ha colpito di più è avvenuto mentre facevamo un picnic sulla spiaggia di Hermanus. Mentre addentavamo il panino è uscita dall'oceano di fronte a noi una foca che ci ha guardato e si è rituffata tra le onde. Abbiamo osservato in silenzio e nella meraviglia. E poi scrive Alessandro che dice: l'armadillo, il procione e le puzzole contano? Sono selvatici, specie l'armadillo e il suo essere un piccolo carro armato su 4 zampe che fa TikTok quando cammina. Alessandro Springfield? Nel senso che scrivi dagli Stati Uniti? Aspetta, fammi vedere il... Eh sì, più 141, quindi ci scrivi da là. 349-238-6666, tutto perché Elena... Cioè, fa ridere, perché abbiamo deciso di parlare degli incontri con degli animali selvaggi, quasi paurosi, perché Elena ha preso un cane. Pronto, Elena? Pronto? Ciao, dove sei? Sono nel parco, sto dilungando. Sei nel parco con il cane? Sì. Ma dove sei esattamente? A Pistoia? Com'è? Sei a Pistoia? Sono sì, in un paesino in provincia di Pistoia. E come sta Brio? Brio sta benissimo. Sì, no, si è adattato benissimo. Ci spieghi? Un po' meno. Tu un po' meno? Sì. In che senso? Sì, praticamente è un cane un po' vivace e la prima settimana mi ha preso le misure, poi insomma si è rivelato in tutta la sua vivacità, nel senso che mi ha praticamente mangiato casa. Scusami, perché noi stiamo dicendo questo, che questo racconto tu ce l'hai mandato dopo pochi giorni che l'avevi preso, giusto, al canile? Sì, 5 giorni. Cinque giorni. È simpaticissimo, è proprio carino, buono. Solo che non mi piace da morire, come primo cane ho trovato un cane un po' impegnativo. Ma gli stai facendo fare educazione, lo stai portando da un... Sì, l'ho portato e effettivamente è stato bollato come il disagato del gruppo, quindi... Cioè, non ho capito, scusami, c'è un gruppo di cani in cui lui viene già messo... Un gruppo di cani, lui disagato del gruppo perché corre, insomma, un po' indisciplinato. Quindi... Disadatto è la definizione che loro hanno dato? Beh, insomma, diciamo che l'hanno buttato fuori da vecchia una volta. Ah, ok, perché... cioè, come a scuola. Eh? È come a scuola. Sì, esatto, come a scuola, esatto. È bello perché, Elena, sei a Pistoia ma sembri in Australia. Però andiamo a un'altra questione. Vero, abbiamo parlato del cane, parliamo di te invece. Cosa vuol dire quando dici che tu appartieni alla quarta categoria di persone che prende il cane? Quella che sostituisce un fidanzato con il cane. Quali sono le altre tre categorie? No, allora ti spiego, la categoria dei padroni dei cani è una categoria di pazzi, in generale. I padroni dei cani fanno delle cose incredibili che chi non ha il cane non può proprio crederci se non le vede. E io l'ho scoperto. Senti, ma fuori il cane. Tu che cosa fai di mestiere nella vita? Io lavoro in un'edicola. Hai un'edicola tua? No. Quindi sei dipendente per un edicolante? Sì. Che orari fai? No, la mattina. Ma la mattina da che ora a che ora, Elena? Dalle 7 alle 2. Quindi ti alzi a che ora della mattina? Alle 6. Alle 6 porti fuori lui, poi vai a lavorare. Tu hai... Questa è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Gli edicolanti, tu tra l'altro sei la prima edicolante che sentiamo in diretta, voi siete qui. Gli edicolanti hanno il polso dei giornali che sono più venduti, giusto? Certo, dipende anche dalla zona in cui vivi. Qual è il giornale che vendi di più in assoluto tu? Sono i giornali locali di qui, il Tirreno e la Nazione. Sì. Tirreno e Nazione, ma nel senso che addirittura esaurisci... La cronaca nera è quella che tira. Tira, sì. Quindi tu esaurisci le copie addirittura o semplicemente? A volte sì. Del Tirreno e della Nazione. E invece tra le riviste? Sì. Tra le riviste sia femminili. Pronto? Ridere. Dimmi. Tutte quelle scandalistiche, ovviamente. Cioè, vabbè, Novella 2000, Chi? Chi, Oggi, Genti, tutte quelle robe lì. Però in testa chi c'è? Chi? In testa... No, quelli di più TV, TV. Ok, va bene. Elena, ti lascio tornare a spasso con il cane. Ti ringrazio per averci dato la possibilità di parlare di animali. Buona giornata. Ciao, in bocca al lupo. Ciao. Non dirò mai più che il cinghiale sembra un maialino, perché sono arrivati decine di messaggi che dicono il maialino, prova a incontrarlo il cinghiale e poi mi dici com'è. Voi siete qui. Elena è insieme a Brio, il suo cane, ovviamente, manco a dirlo nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. È in un parco, però è un parco chiuso, insomma non è in campagna perché si vede una cancellata in fondo. È presa di spalle, quindi c'è qualcuno che alle sue spalle l'ha fotografata, probabilmente a sua insaputa. Lei tiene il guinzaglio del cane e cammina al passo che sembra quasi stanco, sai, quella che sta camminando da 2 ore perché aspetta che questo faccia qualcosa di quello che deve fare perché non la faccia in casa, e lui sembra proprio stia pensando a tutto tranne che a fare quella roba lì. Selvaggio. Aggettivo. Di luogo o terreno coperto da una fitta intricata vegetazione spontanea. Nel linguaggio medico, di virus o altro agente infettivo allo stato naturale, che può quindi determinare una malattia o un'infezione naturale. Di pianta o animale che cresce e vive nelle selve, selvatico. Di persona o gruppo che appartiene a una civiltà ritenuta poco evoluta, non assoggettato a regole né temperato dall'osservanza di norme. Etimo dal provenzale salvage, dal latino silvaticus, selvatico. Data secolo XIV. Sembrano persone a cui è stata cambiata la vita da questo incontro con il selvaggio, con il selvatico, quelli che stanno scrivendo i messaggi a voi siete qui 349-238-6666 o che li hanno scritti invece sul profilo Facebook, per cui ad esempio, ammazza quanti, una femmina di Camoscio con i piccoli in un vaio nelle Dolomiti. Cos'è un vaio? Sarà un canalone. Adesso, ho detto una roba che uno, chiunque sappia che cos'è un vaio. Due bufali al tramonto in controluce venivano verso di noi. Paolo, a funghi sento razzolare. Alzo la testa, vedo una decina di metri da me un cinghiale. Ci si guarda un secondo, poi io fugo da una parte, lui dall'altra, e forse si è spaventato più di me. 349-238-6666. Qualcuno mi parla anche dei tanti cinghiali, tantissimi cinghiali. Cinghiali di Caprera. Inaspettato, piacevole incontro nella selvaggia natura di quell'isola. Anche se i cinghiali di Caprera in realtà sono cinghia maiali, lo so per esprimere che sono un incrocio tra dei cinghiali e dei maiali, che sono una roba che in realtà sono infestanti. E qualcuno mi spiegava che il maiale italiano effettivamente assomigliava a un maialino. Poi qualcuno ha introdotto nell'ecosistema italiano il cinghiale ungherese, mi pare, che invece è molto più grosso e pare anche più pericoloso. Enrica mi scrive: abbracciare un piccolo delfino per aiutarlo a non spiaggiare in una spiaggia dell'Asinara. Il suo respiro e il suo calore resteranno nella mia vita. Enrica, già ti vedo con altre 20 persone sotto il sole su questa spiaggia e questi animali che arrivano e voi tutti in lacrime un po' mentre li aiutate, giustamente, perché mentre li aiutate a riprendere il largo. Che poi si è mai scoperto perché delfini e balene spiaggiano? Ci sono le teorie più assurde, alcuni parlano dei massoni. I massoni però c'entrano sempre, anche se non c'entrano mai. L'ultimo messaggio: arrotato cinghiale, credendolo morto l'ho caricato nel bagagliaio pregustandolo arrosto, era svenuto e quando si è svegliato mi sono accostato e sono scappato, l'interno della macchina completamente dilaniato. Ma come fai a crederlo morto? Si sente che è caldo, sentirà il battito del cuore. E poi ancora: mi trovavo a Bran in Romania. In un bosco mi sono trovato faccia a faccia con un enorme orso. Ciao Massimo. Cosa deve essere trovarsi davanti a un orso enorme che ti guarda? E per cui la tua vita a quel punto dipende solo dal fatto che lui abbia fame oppure no. O forse il fatto che abbia ti consideri una preda. Silvio, due pellicani da solo di notte. Phillip Island, Australia. C'è questo libro di cui vi parlavo all'inizio che ce l'avevo lì proprio sul comodino, che dico appena parliamo di animali, appena parliamo di cani, ne leggo un pezzo. Si chiama La via del lupo, di La Terza, e l'autore si chiama Marco Albino Ferrari. Parla del lupo, ma parla anche di un pezzo d'Italia che è sconosciuto e che lui stesso definisce un pezzo d'Italia selvaggia ma a portata di mano, ed è appunto una parte dell'Appennino, è una via naturale attraverso luoghi che sono semi abbandonati, è larga più o meno 10 km, lui dice, ed è la via che il lupo ha fatto, come vi dicevo, per passare dai Monti Sibillini fino a su sulle Alpi, attraversando tutto l'Appennino. E dice che la cosa interessante è che per trovare ambienti ritornati selvatici lungo l'Appennino non sei costretto a salire in alto, è nella zona di media montagna, addirittura lungo le fasce collinari, dice, che si concentrano le aree di maggiore valore naturalistico. A quelle altezze sta avanzando in tutta l'Italia una nuova forma di selvatico, addirittura di selvaggio. Lo spopolamento ha lasciato spazio libero ai boschi di progredire e agli animali selvatici di ritornare. La natura avanza come una marea, inglobando le tracce lasciate dall'uomo nel corso dei secoli di vita contadina. Ed è bello immaginare questo pezzo di mezza costa, accessibile in realtà, questo pezzo d'Italia che sta tornando selvaggio. È lì, lungo quella che lui chiama la via del lupo, che Marco Albino Ferrari lo ha cercato. Soltanto l'occhio esperto riesce a riconoscere con certezza l'orma del lupo sulla neve. Il lupo ha 4 dita nelle zampe posteriori e 5 in quelle anteriori, di cui una, il pollice, sospesa verso l'alto. Ma non è dalla fisionomia dell'impronta così simile a quella di un cane di grossa taglia, e si riscontra la presenza del lupo. È dall'andamento delle tracce, è dal modo in cui l'animale si è mosso nell'ambiente circostante che arriva il messaggio. Non sull'orma bisogna concentrarsi, ma sul comportamento dell'animale. Per distinguere le tracce giuste, e in pochi lo sanno fare, bisogna insinuarsi nella mente del lupo. Era una sera di fine febbraio, intorno alle 4:30, quando per la prima volta trovai quelle orme. Quella sera di fine febbraio continuavo a camminare seguendo la linea filante della traccia che senza sbandamenti puntava dritta verso il Colle Tosto. Ma era tardi e iniziavo a sentire un po' d'apprensione. Non ero più convinto di riuscire a raggiungere il Colle Tosto e a capire dove conducesse la traccia che stavo seguendo. Rallentai il passo ansimando quando d'improvviso arrivò un rumore sordo, come un brontolio sommesso lontanissimo. Sulle prime mi parve un lamento continuo, quasi impercettibile. Poi vidi, nel lungo rettilineo che taglia di netto il gran piano di Castelluccio di Norcia, stava passando qualcuno. Da lassù non sembrava niente più che un puntino indistinto che si muoveva lento sulla strada, nel mare di neve. Un'automobile, un camion, troppo lontano per capire. Il puntino arrivò in fondo al mio campo visivo, aggirò un costone e sparì dietro una curva, lasciando nell'aria il suo debole suono. Fin quando, dopo qualche secondo, anch'esso cessò, riportando la montagna nel suo silenzio profondo. Mi sentii ancora più solo, lassù, davanti alla traccia che correva sicura nella neve. La guardai l'ultima volta e mi girai. Fui di ritorno a Castelluccio, che era buio. Quella sera di febbraio non riuscii a sapere dove le orme mi avrebbero condotto. A una tana? A un animale predato? Avrei avuto fortuna più avanti, mi consolai, perché la via del lupo partiva proprio da quelle montagne. Society, your crazy breed, I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed, I hope you're not lonely without me. Enrica, quella che ha salvato il delfino dallo spiaggiamento, mi dice: caro Matteo, eravamo in totale solitudine, io e il mio amico Andrea, alcune spiagge dell'isola sono escluse al turismo. Grazie Enrica, grazie a te per farmi sentire un imbecille come al solito, che già avevo immaginato lo stuolo di animalisti. Invece immagino che tu lavori da quelle parti lì, se sei entrata in spiagge escluse al turismo. In Val d'Huron, Dolomiti, mi sono seduto su una roccia, accanto a me c'era una vipera che ingoiava un topo. Enzo da Roma: ho preso in braccio un koala. Indy da Milano: due balene hanno giocato con il nostro gommone in penisola antartica. Abbiamo degli ascoltatori che hanno delle esperienze che noi... Il mio incontro più emozionante: bagno nel canale del Mozambico con una famiglia di squali balena dalle dimensioni impressionanti. E poi ancora Federico: un pitone albino, che uno dice chissà dove, arrivato da chissà dove, sulle scale di casa a Milano. 349-238-6666. Ringrazio anche Beppe, che sul profilo Twitter del programma ha scritto che il vaio è un canalone e che dialetto veneto. Visto come lo chiedevate, ho caricato la foto di Ugo sul profilo Facebook del programma, così sono tutti contenti. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Grazie soprattutto ad Elena, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Donatella, vivo a Oderzo, in provincia di Treviso, sono insegnante, la storia di domani è la mia e parla di due grandi occhi azzurri. Questa è la mia storia e io sono qui.